l'histoire de mon travail. Comment nous avons réussi à filmer cette petite fille? Nous étions en contact avec Hubert. Allora, come siamo riusciti a filmare questa bambina? Eravamo in contatto con Hubert, che è francese, che abita sulla frontiera franco-italiana e ha l'abitudine di ospitare migranti che attraversano la frontiera per donare loro un po' di riposo e aiuto. Ci ha subito segnalato dell'arrivo di questa piccola bambina, di cui però non sapeva nulla perché lei parlava solo arabo e quindi non la comprendeva. Era senza documenti. Era da tempo che noi volevamo sviluppare un film sulla storia di una minore migrante non accompagnata. Ci ha chiamati e l'abbiamo trovata a casa sua. Da quel momento abbiamo conosciuto la piccola Loza. Non sapevamo dove fosse sua mamma. Sapevamo solo che aveva cercato di partire dal Sudan con lei e suo fratello. Siamo stati qualche giorno con lei a casa per cercare di conoscere qualcosa di più della sua vita. Dopo 3 o 4 giorni abbiamo ricevuto una chiamata da parte di suo zio, che era ancora in Sudan. Ha detto a sua nipote che sua mamma era riuscita ad attraversare il Mediterraneo. Da quel momento abbiamo deciso di ritrovare la mamma. Mi ha appena raccontato di come sei entrato in contatto con Lusa e la sua storia. Ma perché hai scelto di raccontarla? Qual è lo scopo del tuo lavoro? Allora, lo premier but d'abord c'est évidemment prima di parlare di uno scopo di natura meramente giornalistica, di reportage, vi è uno scopo umano. Quando ci si ritrova di fronte a una minore non accompagnata, non si ha voglia di lasciarla sola, ma piuttosto di aiutarla. Dal punto di vista meramente giornalistico, invece, quello che mi interessava era di raccontare la visione delle persone che disobbediscono per poter aiutare i migranti con il loro sogno di raggiungere una vita migliore. E ancora un altro obiettivo. In Europa parliamo di migranti, ma semplicemente come di flusso migratorio in generale, senza cercare di comprendere le storie che vi sono dietro a queste scelte, perché si sceglie di migrare. Ecco, quello che mi interessava era anche dimostrare che chi parte dal proprio paese ha una storia, un vissuto e un obiettivo, e ho cercato, grazie a Loza e alla sua storia, di mettere in evidenza l'umanità di queste persone che arrivano in Europa. Grazie a Loza e a sua storia, di mettere un po' un visage e un'umanità su tutti questi gens che essayent di venire in Europa per una vita migliore. Leggo che il film termina con l'idea che Nada è ancora viva e che riabbraccerà Loza. È così? O è soltanto la speranza che nasce inevitabilmente in chi guarda il film, vista anche la piccolissima protagonista? En fait, quand nous avons découvert l'existence de ce que sa maman abbiamo scoperto che sua madre era riuscita ad attraversare il Mediterraneo, salire su un gommone e arrivare in Sardegna. Infatti sono andato a trovarla lì. Poi, per poter raggiungere l'Italia, essendo senza documenti, bisognava assolutamente trovare un modo illegale per portarla in Francia. Le persone che lavorano con Hubert, nella sua casa in Francia, hanno deciso di venire a prendere la mamma di Loza e farla passare illegalmente, nascondendola in una macchina, facendola passare prima in Italia e poi in Francia. Il film termina con Loza che riabbraccia sua madre, quindi non è solo un sogno, ma la storia termina con Loza che ritrova sua madre e suo fratello e con la prosecuzione del viaggio verso la Germania per ritrovare suo padre. Tu hai conosciuto Hubert, operatore umanitario che alloggia Lusa, e anche l'italiana Francesca Perotti. Sì, Francesca, lei è veramente coinvolta nella lotta per aiutare i migranti. Nel film è narrata tutta la sua storia. Lei è stata un anno a Calais. Ho conosciuto Francesca quando ho conosciuto Loza, perché infatti era lei ad occuparsi di Loza nella casa di Hubert, perché Francesca parla arabo. Donc moi j'ai rencontré Francesca quand j'ai rencontré Loza, puisque Francesca était dans la maison et c'est elle qui s'occupait de Loza puisque Francesca parla arabo. A questo proposito, per quel che concerne il dibattito sui passeur, conosciamo il termine negativo, ma parliamo anche di passeur di solidarietà. Infatti Francesca è stata accusata di reato di solidarietà, che non esiste all'interno del codice penale italiano, ma vi è la possibilità di essere accusati di questo. Cosa pensi di ciò e del dibattito appunto sui cosiddetti passeur di solidarietà? Non pensi che sia quasi un ossimoro il termine reato di solidarietà? No, ma moi je pense que y a pas de débat à avoir. No, ma io penso che non dovrebbe esserci un dibattito su ciò. In Francia, ad esempio, il reato di solidarietà è stato abolito da François Hollande da qualche anno, anche se ci sono casi in cui si può ancora essere accusati ed arrestati per questo, in quanto talvolta è davvero difficile riconoscere il sottile filo che separa il vero passeur da chi lo fa per ragioni e in modi umani. Le loi interdisent des gens d'avoir une vie meilleure et les lois dans ce cas-là. Ma io penso che quando esistono leggi che cercano di vietare alle persone di avere una vita migliore, o per esempio ad una bambina di raggiungere sua madre, è evidente che bisogna trasgredire e disobbedire a quelle leggi. Bisogna correre dei rischi perché la vita di una bambina è più importante di quelle leggi. Io sono contro le leggi che puniscono questo reato di solidarietà. pense qu'elle ne rime à rien, elle ne rime à rien du tout.